Buongiorno e bentrovati da Utrecht per questo nuovo reportage sulla competitività di questa regione, la regione definita dalla Commissione europea come la più competitiva d'Europa. Ci troviamo oggi in uno dei cuori pulsanti di questa competitività, l'università. Utrecht Science Park è anche il campus universitario di Uithof, dove andremo a scoprire come l'educazione possa spingere, promuovere e incentivare questa competitività regionale. Il segreto è nell'istruzione. Follow the talent, segui il talento, verrebbe da dire ascoltando le storie che Utrecht sa raccontare a chi la visita. Vi anticipiamo subito le conclusioni a cui siamo giunti in questo nuovo reportage di Radio 24 dalla regione più competitiva d'Europa, secondo la classifica stilata dalla Commissione europea. Oggi vi spieghiamo perché, in questo avvio di terzo millennio, il vero indicatore di competitività territoriale sia sempre di più l'elevato tasso di capitale umano qualificato, meglio ancora se giovane e fresco di studi. Capitale umano dove le aziende innovative possono pescare a man bassa. Capitale umano che in alcuni casi si fa esso stesso impresa. Un solo dato, il 43% della forza lavoro a Utrecht è almeno laureata, più del doppio della media italiana. In questo spaventoso divario passa la linea di confine e demarcazione tra territori competitivi e territori non competitivi, tra passato e futuro, tra chi perde e chi vince. The fact we have a well employed labor force here in Utrecht. Jeroen Kreijkamp, vice sindaco di Utrecht, ha la responsabilità per il settore educazione. Siamo competitivi grazie al fatto che abbiamo una forza lavoro qualificata, sottolinea una volta di più. Abbiamo un settore educativo molto forte, abbiamo un'università molto forte e abbiamo una popolazione molto giovane. Pensi che quasi un quarto dei nostri abitanti è studente o in formazione, 100.000 giovani in tutto. Il profilo di Utrecht è quello di una città della conoscenza e dell'educazione. Questa è la nostra strategia, competitività attraverso una buona infrastruttura educativa. We can hold this strong position. Kreijkamp precisa. The whole range of education. Quando parliamo di educazione intendiamo un'offerta molto più ampia rispetto alla sola università. Si comincia alla scuola elementare, ne abbiamo tante e di ottima qualità. Dall'anno scorso abbiamo pure una scuola internazionale che attrae studenti stranieri. Ciò che rende speciale Utrecht è che scuole e università cooperano per migliorare la qualità dell'istruzione. Kreijkamp fornisce anche delle cifre. Il budget comunale per istruzione è 70 milioni di euro, cui va aggiunto il finanziamento statale che costituisce la fetta maggiore. E allora procediamo con un comodo autobus in attesa che arrivi anche una linea di tram verso il campus conosciuto come The Uithof, sede dello Utrecht Science Park, vera punta di eccellenza del sistema universitario olandese. Non è raro trovare foto di questo campus sui libri di architettura grazie allo straordinario lavoro di alcuni designer olandesi. Con Witske de Lange, portavoce dell'Università di Utrecht, tracciamo una panoramica dell'Ateneo, tredicesimo in Europa per lo Shanghai Ranking e primo in Olanda. We're one of the biggest universities in Holland. Siamo una delle più grandi università del paese, offriamo 50 corsi di laurea e quasi 170 master, molti dei quali in inglese. Abbiamo circa 30.000 studenti con 6.000 dipendenti. È anche interessante notare come, ogni anno, attraiamo oltre 2.000 studenti e ricercatori stranieri. Abbiamo una storia longeva, siamo stati fondati nel 1636 e abbiamo accumulato 12 premi Nobel. L'Università di Utrecht, aggiungiamo, conta su 7 facoltà divise tra umanistica, economia e scienze e medicina. In un circolo virtuoso, l'alta presenza di capitale umano qualificato porta a stipendi più alti, il 6% in più rispetto alla media olandese. Qui un neolaureato può ambire a 2.000 euro netti al mese, conferma Stefano Lugo, docente di finanza e ricercatore alla Utrecht University da poco più di un anno. Molti miei ex studenti riescono a trovare lavoro nella zona e molti in piccole imprese nate da relativamente poco, per cui sicuramente l'imprenditorialità esiste in questa regione. E per quanto riguarda invece l'università, che è il mondo che conosco meglio io, non saprei dire a proposito di Utrecht nello specifico, però sicuramente ci sono enormi differenze fra l'Olanda e l'Italia per quanto riguarda l'università. Quali sono le maggiori differenze? Ma se dovessi dirne una sola è l'organizzazione. Qua esiste una regola per tutto e la regola è chiara, c'è un algoritmo che calcola esattamente cosa devi fare in modo tale che tutti lavorino allo stesso livello e non ci sia free riding. Cosa devi fare per poter fare carriera è chiaro fin dal principio, non ci sono indicatori che cambiano ogni anno. In base ai risultati anche produci. Sì, esattamente. Per cui è tutto molto trasparente, sai esattamente quali sono i tuoi compiti, che cosa ci si aspetta da te e come verrai valutato alla fine. Secondo Stefano Lugo, l'Università di Utrecht contribuisce in modo importante alla competitività regionale. La percentuale di studenti stranieri è abbastanza elevata, credo sia attesa intorno al 10%. Interi programmi di studio sono offerti solo in inglese, il che ovviamente favorisce l'attrarre sia studenti sia anche docenti non olandesi, perché non devono insegnare in olandese. E poi i processi di assunzione sono assolutamente trasparenti, ogni volta che c'è una posizione aperta questa viene pubblicizzata ovunque sui principali siti del settore, per cui... Tu sei arrivato con una semplice application, immagino. Assolutamente sì. HIFU is a technique which might be implemented on a broader scale in the future. Per darvi un'idea del livello di ricerca che si conduce qui, vi portiamo a conoscere da vicino MR Linac, un nuovo prototipo di macchina che nei prossimi anni contribuirà sia a produrre immagini ad alta risoluzione dei tumori, sia a bruciarli letteralmente senza ricorrere ad operazioni chirurgiche. Una macchina frutto della lucida follia di un'equipa di medici in collaborazione con le aziende Philips ed Elekta. I primi test sperimentali sui pazienti sono previsti tra un anno, tra alcuni anni potrebbe approdare negli ospedali. Peter Luiten è professore di Functional Medical Imaging allo Utrecht Medical Center. From my point of view it is a very competitive. Quella di Utrecht è un'area molto competitiva perché presenta un'enorme concentrazione di conoscenza. Non si tratta solo degli ospedali universitari, ma anche l'università stessa con il suo expertise. Questi sono progetti che richiedono un approccio interdisciplinare tra varie facoltà. Una tale concentrazione di conoscenza è introvabile in altre città olandesi, ci dice. Anche il rapporto con le aziende presenta barriere quasi inesistenti. Abbiamo ricercatori che vengono a lavorare come ospiti da noi in università e viceversa. C'è un'integrazione molto forte tra ricerca pubblica e privata. Noi come accademici sappiamo bene cosa serve alle cliniche, ma abbiamo bisogno delle aziende per trasformare il prima possibile i nostri progetti in prodotti per i pazienti, spiega il professor Luiten. La partnership tra università e mondo dell'impresa funziona bene a Utrecht e non solo in ambito medico. Entro il 2018 si calcola che saranno creati tra 3 e 4 mila nuovi posti di lavoro grazie a un ecosistema che stimola sinergie innovative. Per accelerare la crescita di questo ecosistema, università, banche e imprese hanno dato vita all'incubatore Utrecht Inc. Roel Ratgever ne è il direttore. Utrecht Inc. is a business incubator. Siamo un incubatore di business, facciamo parte dell'università, aiutiamo lo sviluppo di startup innovative. Da noi vengono solitamente neolaureati, ricercatori o ex studenti. Ci portano la loro idea. Ogni anno riceviamo 150 candidature, di cui ne avviamo poi una ventina, ci spiega Ratgever. I settori sono soprattutto quelli dell'IT, con connessioni ad applicazioni per l'educazione e la salute. Le startup iniziano con un programma di 3 mesi, dopodiché affrontiamo un primo esame che di solito superano nella percentuale del 50-75%. A quel punto l'80% delle imprese sopravvissute arriva al mercato. Parliamo di aziende che hanno un massimo di 6 o 7 dipendenti e se guardiamo al totale dei posti di lavoro creati invece nell'ultimo triennio sono stati 325. A Ratgever chiediamo quanto un incubatore come Utrecht Inc. aiuti la competitività regionale. First of all, I think our graduate companies, so our successful companies. Le startup che escono dall'incubatore tra 10 e 15 l'anno restano quasi sempre nella regione, contribuendo così alla competitività. La cosa positiva è che molte delle nostre aziende contribuiscono a incrementare un ecosistema produttivo. E quanto è importante avere una forza lavoro qualificata, gli chiediamo. È importante. Noi siamo in grado di offrire talenti alle startup. L'essere così connessi all'università ci facilita molto. È anche il motivo per cui vengono da noi. Fortunato Pepe è un manager per SKF, multinazionale leader nella fornitura di tecnologie innovative. Lavora a Utrecht da circa un anno. Ci aiuta a comprendere con occhi italiani come si applichi nella vita quotidiana il significato della parola competitività per chi ad Utrecht ci lavora. Ho trovato tutto estremamente facile e questo è sicuramente il frutto e il segno di una mentalità che qui ha, diciamo, creato un circolo virtuoso tale per cui attrae. C'è una mentalità di lungo periodo, quindi le prospettive pensano sul lungo termine e questo è sicuramente un vantaggio e rendono le cose semplici per chiunque abbia voglia di fare, di investire, che siano aziende, che siano persone singole che si cimentano in nuove imprese, c'è un tessuto, c'è una mentalità che veramente aiuta. Sarebbe facile fare i confronti con l'Italia e sarebbe anche ingeneroso, quindi i meccanismi non sono dissimili, ma funzionano decisamente meglio, quindi non c'è solo la probabilità di prendere un contributo per la ricerca come in Italia che devi applicare non si sa mai. Qui c'è una cosa sistematica tale per cui un tot di percento della ricerca fatta viene rimborsata sotto forma di tasse. C'è un tessuto connettivo a livello universitario, quindi l'imbarazzo della scelta tra essere collegato o avere una partnership su certi temi con la Technical University of Delft piuttosto che quella di Eindhoven. E il circuito, il network di aziende che fanno ricerche, che fanno soprattutto applicazioni, è tale che si creano automaticamente delle filiere di prodotti di sviluppo. E questo è una cosa che non c'è in tantissimi altri posti al mondo. Per cui non so se è il primo posto Utrecht, ma di sicuro è tra i primi posti. Pepe lo ha sottolineato molto bene. A Utrecht è vincente l'integrazione tra università, ricerca e mondo dell'impresa. Tempo allora di un rapido flashback. Torniamo allo Utrecht Science Park perché ora nel campus universitario arrivano anche le aziende. The key and decisive factor for us to come to Utrecht. Elmo Wissing è direttore di Nutrisia Research, azienda del gruppo Danone specializzata negli alimenti medici e per bambini. Il suo edificio dal design futuristico è uno degli ultimi arrivi. Ospita 440 dipendenti e ha un giro d'affari di circa 21 miliardi l'anno. Qui a Utrecht sviluppano i nuovi prodotti alimentari e li testano grazie a un piccolo impianto di produzione. Il fattore chiave che ci ha convinti a venire qui è stata la qualità della scienza e dell'ambiente medico, ci spiega Wissing. Abbiamo preso la decisione nel 2009. Qui troviamo partnership pubbliche e private, che porta a forti sinergie. Qui i ricercatori parlano e comunicano tra loro, trovano terreno comune. E i ricercatori universitari apprezzano sempre di più il vedere le loro scoperte tradotte in prodotti. C'è di più. Il capitale umano qui abbonda. Abbiamo un flusso costante di giovani talenti che arrivano e ci portano le ultime novità in fatto di innovazione sul fronte della ricerca. Con sé portano anche i loro network. C'è un continuo ringiovanimento. Muovendoci qui siamo riusciti ad attrarre con maggiore facilità talenti internazionali. La posizione geografica di Utrecht e le infrastrutture sono fondamentali. Qui tutti gli ingredienti si incastrano. Siamo un'azienda che attrae talenti, ma ci troviamo anche in un'area attrattiva, conclude Elmo Wissing. Quello che state ascoltando in sottofondo è il rumore delle escavatrici che stanno completamente ridisegnando l'area della stazione centrale di Utrecht. Da qui al 2030, quindi 15 anni, sono in programma lavori che stravolgeranno la fisionomia di questo centro città, con un'intera zona coperta, piena di negozi, centri commerciali, cinema e altre attività. Anche questo significa alla fine infrastruttura. Uno snodo centrale come la stazione, arricchita e inserita ulteriormente all'interno del contesto urbano. Quando parliamo di infrastrutture, chiaramente parliamo di competitività. L'ultima tappa della nostra inchiesta a Utrecht, regione più competitiva d'Europa, ci porta in comune. Dopo avervi raccontato il fattore chiave dell'educazione e della ricerca quale strumento per la competitività regionale, vogliamo fare un rapido accenno anche al capitolo infrastrutture, altro asse portante di questa capacità competitiva. Paul Causier è direttore del settore mobilità al municipio di Utrecht. Ci spiega subito come il fattore infrastrutture giochi un ruolo decisivo nello sviluppo del territorio. We are central located in the heart of the Netherlands. Ci troviamo nel cuore dell'Olanda. Lei ha impiegato solo mezz'ora di treno per arrivare qui da Amsterdam. La nostra stazione centrale è l'hub delle ferrovie olandesi. Tutte le linee si incontrano qui. Lo stesso vale per le autostrade. Siamo perfettamente collegati con la Germania. Allo stesso tempo ci troviamo sull'asse infrastrutturale Amsterdam-Utrecht-Eindhoven, il cuore tecnico e industriale del paese. Chiediamo a Paul Causier se esista una strategia definita dietro a questa centralità di Utrecht a livello infrastrutturale. Nei secoli la nostra posizione centrale è stata un regalo della geografia, ma nell'ultimo periodo e in ottica futura stiamo lavorando duramente per mantenere questo vantaggio competitivo. Noi abbiamo un programma da 3 miliardi di euro in investimenti per ferrovie, trasporti pubblici, autostrade. Si tratta di un investimento sul lungo periodo, 50 anni, dagli anni 80 fino al 2030. Infrastrutture e competitività, un rapporto causa-effetto, chiediamo a Paul Causier. È un processo di azione e reazione. Le aziende vengono qui per la posizione geografica, crescono, chiedono al governo di sviluppare nuove infrastrutture, ciò avviene, il che attrae nuove aziende. Le faccio un esempio. Abbiamo migliaia di studenti allo Utrecht Science Park. Questo ha attratto aziende interessate ad acquisire capitale umano. Ciò ha aumentato il numero di auto in circolazione, quindi abbiamo sviluppato infrastrutture viarie e questo ha reso ancora più interessante per le aziende spostarsi a Utrecht. Utrecht. Altro esempio, la stazione ferroviaria, un processo di riqualificazione che si concluderà nel 2030. Ogni giorno transitano da qui 200.000 passeggeri, il che ci rende impossibile chiudere del tutto la stazione. Per questo dobbiamo procedere a piccoli passi. E badi bene, non si tratta solo di una riqualificazione, stiamo sviluppando una stazione completamente nuova. Sarà un punto di snodo anche per le autobus, le auto, le biciclette. Ospiterà uffici, un centro commerciale, sarà un vero e proprio hub, un po' come l'aeroporto di Amsterdam. Costo totale 1 miliardo e 200 milioni di euro, due terzi dei quali pagati dal governo. Per chi visita Utrecht oggi, la città assomiglia a un grande cantiere. Ci insegna che la competitività di domani inizia con investimenti mirati oggi e che la competitività regionale non è mai un dono che cade dal cielo, va coltivata giorno dopo giorno con strategie chiare, integrate e definite.